Buongiorno a tutti, il programma prevede di parlare di domande, di indizi di colpevolezza, di discorsi brucianti e di dare qualche consiglio a come vincere sempre al Superenalotto.